Non so perché ora porti ricci, ma si adattano al tuo viso. Pensieri folli e poi capricci mi lasciano sempre un po' indeciso. Non so se correre ai tuoi piedi o ostentare serietà. Ne so trovare altri rimedi a queste sole verità. Che tu sei bella oltre ogni cosa e senza te son così solo. Che sei fantastica e preziosa ed ora assieme a te io volo. Più in alto di una nuvola io volo. Dimentico di ieri. Favola io volo, distante dai pensieri. Ora mi guardi il tuo sorriso, conferma forte in me l'idea che in altre ere il tuo bel viso l'attribuivano a una dea. Forse hai capito, almeno spero, che assieme a te non qualche certo è proprio vero, assieme a te ora io volo. Più in alto di una nuvola io volo, distante dai pensieri. Posso ora pensare a chi poi diventerò e non temo più il tempo in cui io mi perderò. Posso ora sognare che accanto a me sarai e son certo di accettare ciò che tu diventerai. E non smetterò di amare quel che tu mi porterai. E non smetterò di amare ciò che tu donerai. E non smetto di pensare a come assieme a te ora io